Vabbè. Ho capito. Ah, vabbè. Aspetta, non so. Ma si prova alle 5:30. 5:30 se provo, a vedere. Speriamo che cazzo prima delle 8. Allora, guarda, è un casino, perché non sa neanche loro cosa cazzo devono decidere. E le poste sono le poste, già lo sai. Guarda che c'è gente che hanno caricato da stamattina all'1:30, lo sai. Regione per regione, prima fanno il nord, poi fanno il centro, poi fanno il sud delle isole, hai capito? Basta, 4, ho mandato un babuccino, te l'ho detto, non ce l'ha niente. Già me l'hai detto. Anche io ho provato alle 4:30, quindi figurati. Si è preoccupata la linea. Però già lo sai, al terzo tentativo, già riesci a telefonare. Asciti un numero così te lo segni invece, così ce l'hai. Nel caso telefoni da telefonino tu quando vuoi qualche volta, capito? Così almeno sei più tranquillo. A posto di andare in macchina, telefoni direttamente dal telefonino e sai se ci sono oppure no. Ah no, cazzo, che tu c'hai, non c'hai la... tu c'hai l'attaccata, c'hai. È inutile che i telefoni per... Allora, tutto faccio. Adesso proprio alle 6, speriamo bene, cazzo. Anche perché io devo andare a prendere l'extra Simona, cazzo, alle 8, la farmacia, alle 8:30 chiude la farmacia che c'è qui. Capito? Quello è il problema. Poi dalla farmacia alle... come si chiama? Poi... la Cobec c'è pure. Tutti i negozi chiudono, cioè quelli che lì dal coso chiudono alle 8:30. Alle 8:30 chiudono, la cosa che chiudono alle 8:30. La cosa, MD chiudono alle 8:30. Chi è? MD lo chiudono. Io vicino, Ma sono certo, ma non sai che se hanno caricato i soldi, non ti vede, che fai con la cosa. Già lo so, Giuseppe. Conrad è lì dal chilo delle 8:30. L'unico che spiega c'è qui, c'è scritto il chilo delle 8:30, se vai lì alle 8:15 siamo chiusi. Come sono un po' di merda, non lo sa neanche loro cosa vogliono fare, non va bene. Sono sicuro che se vado via Verona alle 8:30 sono ancora aperti. Tutti chiudono 8:15, 8:30, hai capito? No. No, alle 8:15, come pensano loro, ho capito. Aspetta un attimo il telefono. Vabbè, va, adesso prova, vuoi un po', va. Dopo a me sicuri, sono ancora. Aspetta domani mattina, se fanno cosa è domani mattina, poi non mi avvicino giù all'ufficio volontamente, vediamo un po' cosa mi dicono loro. Aspetta. Comando, visiti 1. Per la lista degli ospiti, il saldo disponibile residuo della sua cassa. 1. 1. 17. Centesimo. Bastate, a te l'avevo caricato un cazzo. Bastate le poste, cazzo. Ah, perché oggi è 27, mi pare. Ciao Antone, stavo sentendo prima anche Leoncino che arriva discreto, 9 più, cioè 9 con picchi, però c'è un rumoraccio terribile appresso. Perché era il barattino vicino all'abitatore. Giuseppe, ancora non aveva caricato un tubo. Ho capito. Ciao Marco. Ciao Giuseppe, dopo tanto, sì, allora se sei a casa tua arrivi bene, se stai usando quell'antenna che Pomponi ha detto, e 9 con picchi positivi, sì, c'è una specie di innesco vibrato, una cosa del genere, probabilmente vai troppo vicino all'antenna, vai troppo vicino all'alimentatore, riprendi. Guarda adesso, ho spostato, lo vedi un po' come sei fuoco. È tutto vibrato, molto vibrato, tutto brrr. E quindi comunque è capibile, cioè ci si capisce quello che dici almeno. K. E quindi Antonio, stai aspettando la pecunia? Allora, sto aspettando che carica. Questi bastardi vedono che carica alle 8 di euro, come aveva fatto l'altra volta, cazzo. Alle 8 di sera mi aveva caricato la carta, cazzo. Sono dovuto andare a piedi, cazzo, correndo per trovare un alimentare a prezzo e farmi la spesa. Cazzo, invece se è capito. Meno male, qui alla, come si chiama, alle 8 chiudono immediatamente, alle 8 meno 4 si stronzi che c'ho qui. Invece la Kobeck è lì alle 8 e mezzo. Ho sentito che poi arrivi lì alle 8 meno 4, dico, stiamo chiedendo. Capito? Così loro magari mettono a posto tutto prima, riassettano e magari ci fanno la trombata nel negozio chiuso. Allora così fanno, l'altra volta con la lingua fuori sono arrivata alla Kobeck. Ho comprato quello che mi si è fatto in mente, provvisorio, se no non c'avevo nulla, capito? Avevo già esaurito tutto dal frigorifero. Quindi cazzo a me andare a passo di gare cazzo così veloce, cazzo, camminare veloce per andare a arrivare alla Kobeck ogni casino, cazzo. Poi dovevo scendere, fare tutta la discesa, poi girare in via Coladuzza, la via Coladuzza, poi andare dritto, hai capito? E poi entrare lì a, come si chiama, con la lingua fuori, cazzo, e poi arrivi alla cassa, tutto usato, cazzo, trac. Paghi e Pinnalli, meno male. Ma Antone, come mai correndo con la lingua fuori? Ma perché sei appiedato? E allora, come se vuoi, credi che ci vado in macchina alle 8:30, cioè alle 8. No, ma è il mezzo, quello lì, quel mezzo famoso. Quello in fondo in garage, capito? Devo caricare la batteria, devo anche ritirare il caricatore che mi manca, diciamo, quello della sorella, il caricatore, capito? E quindi adesso non ce l'ho, caricavo la batteria così nel garage suo, adesso mi tocca domani, se non caricano stasera, domani li vado ai cinesi, quelli che sono a fianco MD, che ho di altri caricatori, me lo ritiro così ce l'ho e mi ricarico le batterie, perché sono due batterie da 12, quindi sono 24 volts, 70-70 sono 140 ampere. Poi per vedere se lo scarica basta che tu prendi il positivo e il negativo e lo tocchi con la lingua insieme. Ammacco. Tipo la batteria da 9 volt, che già fa male quella, figurati una cosa del genere. Riprendi Giuseppe. Oh, sì, lo metto il culo, è così fa doppia scintilla. Oppure Antonella, che chiami? Un po' umida, no? Metti positivo, negativo. Quello lo fanno i cosi, lo fanno i militari, già lo sai, attaccano due cave alle palle, capito? E ti fanno nuovo. Ah, quello a Guantanamo. Ma devi essere un terrorista per ricevere un trattamento del genere. Allora, se non basta quella fare che usavano la volta i cinesi, quella per fatti i muscoli, la gancia alle palle sotto, sono 1500 volts, mi sembra sono 300 mA, 400, vuol dire che lo senti. Io una volta l'avevo comprato dai cinesi questi affari, lo mettevi sui bicipiti, sulle spalle, così, sentivi queste, era modulabile, o erano impulsi singoli, il muscolo proprio si contraeva, oppure era piano piano, sentivi il formicolio e il muscolo si rigidiva e poi te lo rilassava. Però funziona con i muscoli, so, capito, non è per piaceri sessuali. Se lo metti lì, stai tranquillo che te lo secca. Avanti Giuseppe. Giuseppe, ho capito, non fa il culo adesso, stai scendendo ben male, ti sei sceso anche pure il segnale, ma quell'alimentatore, cosa sta scaldando sta? Adesso sei uscito bene, lascia, non toccare più niente, lascia così, adesso sei uscito bene. Va bene, va bene. Adesso va meglio. Guarda Marco, cosa mi racconti di bello? E di bello, vabbè, tre giornate uguali, caldo, al mare non sto andando perché dopo l'influenza mi ha fiaccato molto, proprio mi ha stancato molto. E ancora però non sono nel pieno delle forze. Anche tu c'è il mio problema, della vecchia, che devi tenere l'occhio. Eia. Comunque a certi passaggi Giuseppe, certi passaggi esci bene, cioè diciamo meno peggio, certi passaggi è terribile. Non lo so perché, guarda, diciamo che l'apparato è sopra questo mobile, l'alimentatore è vicino, hai capito? E dunque non riesco, non lo so perché. Dai, si troverà la soluzione, ma l'antenna è messa interna, come veicolare? Io sto usando l'antenna di quella tubo 2001, hai capito? Però è interna, cioè hai fatto qualche massa, non so, su qualcosa di metallico almeno? Sì, no, io l'ho fatto assolutamente alla palo, pure con l'antenna, hai capito? L'altra, l'avevo buttato giù e l'avevo lasciato volare, ma non è. Una volta che la buttiamo giù, facciamo tutto il lavoro nuovo e non è toccato nuovo, sì, ok, più o meno ho capito, da. E tu che antenna avevi prima? Grande, che antenna avevi? Questa era la BL27. BL27, Antone, ma cos'era? Tipo questa. Uguale identica a quella che c'è tu. La BA27L. Ah, giusto, BL27L, sì, quella lì. Eia. Sì, è stata copiata da tanti, c'era tantissimi nomi, Silver Road la chiamano, in base al paese cambia il nome, alla fine è lo stesso concetto di antenna, la stessa staffa, i soliti tre radiali che per fortuna sono da 1,30 m. Vedi, solo la Venom ha messo questi tre, chiamiamoli radiali, da 30 centimetri, che non ho capito cosa servano, perché piano di massa ne è ben poco. Comunque, sarei curioso di vedere realizzare la Venom con quel programma. Come si chiama? Managal, quello che simula le antenne, tu gli metti i parametri per capire anche il lobo di radiazione che ha la Venom. Parlo della 5 ottavi almeno, no? 5 ottavi con quei radialini. Poi della mezz'onda con i radialini non ne voglio manco sapere, che deve essere una cosa perversa, deve essere. Oh, ciao Nicola, sono in compagnia di Antonello e di Giuseppe Leoncino, Vediamo se ascolti Leoncino. Leoncino, vieni avanti per Nicola Lupo Grigio. Buonasera Nicola, da questa parte Leoncino, perché su poi saluta sotto 351. Cambio. Eia. Giuseppe, ti sente molto male, con la radio fortemente disturbata, perché quella vibrazione è terrificante. Quindi Nico, no, stavamo parlando di quelle antenne lì, delle solite Venom, eccetera. Aspetta, però dov'era? Il punto dove volevo arrivare, porca miseria, adesso mi sfugge. Vabbè Antonio, riprendi tu, dai. A me non lo sta usando più nessuno comunque come antenna, non piace a nessuno. Non so quante mercurità ci sono in vendita, ce n'è un'altra oggi. Bella, c'è un mercurio, no. C'è una Sirio 58 che c'è. Non so, 250 euro mi sembra la Superstar 2009 e l'alimentatore è quello della Apple, non si conosce, non è presente quello con due strumenti. Sì, la Venom, sai cos'è? Io la vedo come antenna temporanea. Che adesso tu c'hai un'antenna seria sul tetto, per dire, no? Una persona qualsiasi, seria o semiseria, ti si spezza, ti si rovina. Magari momentaneamente non vuoi fare la spesa di un'antenna nuova, degna di nome, un'antenna con la maiuscola. Provvisoriamente la sali, la metti su con due giri di agglomerante e ti permette di stare, che ne so, una stagione e di modulare lo stesso. E poi però a breve termine si cambia. Io quella la volevo mettere in campagna, però ancora non sono riuscito a convincere la persona interessata. Ho capito, ho capito. E vabbè, se anche una Buma o una Gran Previa, cioè la capita non conviene più, ma con 100 euro ho dato una Gran Previa, ma che ti fa il gabbavero, so. Vabbè, l'alluminio, cazzo, è aumentato, ma già me la faccio io la Gran Previa, almeno dura, non si piega lo stilo. Cazzo, ma 100 euro, questo è fusato fuori di testa, anche gli altri. Non si può comprare un'antenna, una Gran Previa di Bertola 100 euro. 100 euro si può pagare una cosa, una P27L. Cazzo, ma 100 euro una Gran Previa non esiste. No, ma infatti, cioè, i prezzi che fanno qua non hanno senso. E allora uno se lo ordina da fuori, 10-15 euro di spedizione, anzi 15 se ti va bene, e non arrivi nemmeno la metà, penso. No, e balle, ho visto certi prezzi, Antone, antenne veicolari 70 euro, antenna veicolare, sì, con la base magnetica 70 euro, cioè quanto un'antenna del tetto, vabbè, è aumentato tutto. E qua ti volevo dire però del coso, uffa, oggi non è giornata, mi. Vabbè, riprendi. Vabbè, Nicola, c'è ancora. Se puoi riprendere. L'altro giorno eri con l'apparecchio bollente, l'avevi fatto raffreddare, poi non ce l'avevamo più sentiti. Ma quelli sì, per me, un attimo, mio Marco. Ci sentiamo dopo, dai, ok? Ciao Antonello, ciao Marco e ciao l'altro amico, ok? Eia, Giuseppe, ci sentiamo, ciao, stai bene. Ciao, Luca. Pronto, pronto, mi sentite? Chiamo da Porto Torres, pronto! Avanti, avanti, la città del Carraggio, avanti! Buonasera a tutti, chiamo da Porto Torres, mi sentite? Io vi sento forti e bassi! Forte e chiasso! Ok, ciao Giuseppe, buona quello che devi fare, non si è capito perché la modulazione è veramente terribile. Attenzione ai rientri di RF. Attenzione ai rientri di RF, se no rischi pure l'apparato. Va bene, Antonio, riprendi. No, non è stazionario. C'è un alimentatore evidentemente che non ho. L'apparecchio sopra un bel capito. Infatti se ti sei accorto, è appena entrato da 9 e poi è sceso a 8 o 7. Quindi c'è, mi avessi, se prendo l'alimentatore dei cinesi, di quelli con la cazzata, c'è anche 5 ampere, 6 ampere. A lui abbatte e avanza, li ho visti l'altro giorno, mi pare costa 10 euro. Eia, Sì, però ho notato che Muraia e compagni hanno sempre alimentatori, quelli per strisce LED, quelli piatti, ce l'hanno sempre a pochi ampere. Se tu vuoi quello come ce l'ho io, come ce l'ha Luca, come credo che ce l'abbiano tutti i CB ormai, quelli da 50 ampere, 80, devi sempre comprarli dal solito venditore su eBay. Confermo quello che dice Marco, quelli cinesi non servono a nulla. Proprio zero, la scheda è molto meglio quelli che li vendono su eBay, il mio è da 50. Vabbè, già ce l'ho posto te, quindi adesso. Quando dovrebbero rimanermi un po' di soldi a voglia, questo mese. Perché ho pagato due volte quel cazzo di cosa dell'acqua. Quindi ho pagato agosto, settembre, a un certo punto, quindi mi rimangono 85 euro in più in cassa per spenderli come voglio. Avanti Marco. Un attimino Marco, è stazionario, lascia il stacco. A proposito di stazionario, no Antone, io ho detto a Giuseppe, attenzione ai rientri di RF, non ho parlato di stazionarie. Magari stazionarie non ne ha, però l'antenna è così vicina all'alimentatore che magari qualcosa passa, rientra e fa quei rumoracci. Io un rumoraccio del genere l'avevo sentito solo dal Kenwood, messo in macchina con l'antenna, come si dice, l'antenna per la 27, quella taratta. Tu è la taratta, uno sta uno. Come premivi la portante, sentivi dal Kenwood questo rumore così forte, trrr, vabbè, il Kenwood 140 è un bidone, lo sappiamo, no? E quindi non va bene neanche in macchina quell'apparato, nemmeno con l'antenna taratta. Dei rientri terrificanti, e ho detto no, qua brucio tutto. Giusto con la prova che avevo fatto isolata, ero curioso. L'avevo provato proprio in campagna, mi. Ah, io che avevo provato in macchina, ho provato. A Usi l'ho provato, nella 1 di Andrea Maricumio e anche in un'altra macchina, eppure non mi ha dato mai fastidio, avessi 80, 140, no? Se uso la magnetica col Kenwood, può darsi pure che mi faccia rientro, niente di strano, basta che ritolgo la gomma e a contatto con metallo la calamita fa più presa, capito, fisicamente. Infatti quello non lo so Antone, non so se sia la magnetica, se era il cavo anche che arrivava dalla batteria, io avevo il cavo molto lungo, arrivava sotto il sedile e poi faceva una semicurva per tornare indietro. Invece raccomandano sempre di mettere, anche se usi linee rette in macchina, di mettere il cavo che viene dalla batteria, dice deve essere il più corto possibile, e il motivo è quello. Vabbè, il cavo del cavo non è molto lungo, se no, come ti posso dire, 2 metri, non di più, dell'alimentazione. L'assorbimento. E nulla mai detto. Più 2 metri di cavo che arrivavano dalla batteria sotto il sedile, facevano il giro dietro e tornavano avanti, altri 2 metri di cavo e siamo a 4 metri di cavo. E magari il rientro era proprio RF, era da lì, dall'alimentazione. Se vai da dove c'è la batteria dentro l'abitacolo già ci sono 2 metri, anzi forse devi mettere qualcosa in più pure, non so l'altro, perché devi fargli fare il giro, non è che hai capito. Perché praticamente la batteria è dalla parte del conducente e invece l'apparecchio di solito lo metti a fianco al conducente, quindi tu immaginati che devi fare tutto il giro del cofano. Guarda, nella nuova non ho provato, guarda, se trovo quell'accessorio, quella guida lì, quella cruna, come cacchio si chiama, la cosa, passiamo il cavo, mettiamo un fusibile con portafusibile, però lo faccio corto questa volta, perché io con l'altra macchina c'erano 2 apparati, se non 3, che in macchina innescavano, non c'era niente da fare, e guarda che le ho provate tutte. Massa, base magnetica oppure grondago, massa effettiva, massa riportata, di tutto ho provato. Ho provato anche a alimentarlo con, aspetta com'era, presa accendisigari, batteria diretta, non c'era verso. Gli apparecchi, 2 in particolare, innescavano, non li potevo usare. Avanti Luca. Ma la signora della cruca non l'hai provato tu? Ma se proprio quello è capace che mi innamoro pure. Quello risolve tutti i problemi, una bottarella mia, anche la macchina, vedi che tanto l'asino già di bocca buona, la bottarella la do ovunque. E qua, vabbè, ciao a tutti, dai, sono in ascolto io che mi hanno macellato ieri. E cosa ti hanno fatto, esami? Il pre-ricovero ho fatto, più mi hanno tolto il catetere e me ne hanno messo un altro. Mamma mia, mi brucia tutto solo a pensarci, guarda. Però è buono che adesso ti mettono sotto e risolvono irrisolvibile, Natalia, dai. E intanto l'anestesista ha detto che mi mandano in rianimazione quando per svegliarmi. Beh, terapia intensiva, beh, quello dopo la... anch'io dopo l'operazione ero in terapia intensiva, sì, è praticamente una rianimazione quella. Mamma mia, che non ci voglio pensare. Chissà cosa comporta, io non me lo ricordo più, perché non ci sono mai stato in rianimazione quando mi hanno operato. E magari quando siamo mezzi addormentati ci fanno pure l'allaccio, non ce ne accorgiamo. E occhio non vede, cuore non duole. Ah, io sono stato rimasto lì e sono stato, ecco, è fresco bulo, c'è fresco. Io ho capito, e un paio di giorni ti tengono sotto controllo. No aspetta, ma c'è una confusione, non è di animazione, sono stato, ma poi si dice, sono paratturia, cazzo l'animazione. Non è che la terapia intensiva, perché appena dopo operato di solito mettono lì, che io non so se sia la stessa cosa di rianimazione, comunque c'hanno tutti i macchinari per le emergenze, i respiratori, tutta quella roba lì, no, per quando ti devono, diciamo, estubare. E infatti, mi hanno detto lo teniamo un paio di giorni sotto osservazione. Oh, Natale. Ehi. Ascolta, io ho formattato il computer, solo che questa appena di non c'è la licenza. Lo sai da dove l'ho presa? Da Windows 7. Ho messo quello e me l'ha attivato. Ah, ma è meglio così. Alla grande. Di capo. Bene. Antonello c'è ancora? Sì, sono qua. Stavo cercando l'app di, come cazzo si chiama, BP, che cazzo, no, non questo, cazzo, non c'è niente, questo cazzo di telefono adesso è mezzo scarico adesso. Devo scaricare la PEP, mi sembra, l'ho posto qui. Ah boh, io l'ho posto qui, l'ho avuto secoli fa. Non l'ho utilizzata, è scaduta e l'avevo revocata anche il rinnovo. Se c'era, non mi ricordo, se sono passati anni. Io preferisco carte come Hype oppure quell'altra, quelle prepagate, senza costi, senza niente, senza rottura di scatole, e puoi fare tutte le operazioni come che avessi un conto. Naturalmente ci sono dei limiti in soldi che io non raggiungerò mai, no, per fare queste cose. Se invece tu movimenti molto denaro, somme grosse, allora devi fare la versione plus, che costa un tot all'anno. E io, cioè, mi sembra, come costa €1-2 mi sembra di io, di cosa, ogni cosa che faccio. Oh, no, qua zero, costi zero, cioè tu fai un bonifico, costo zero, fai una ricarica, tutte le operazioni sono a costo zero, costi annuali zero, tutto zero. È la AIP, te la mandano a casa, non devi nemmeno andare in nessuna filiale, te la mandano a casa, la devi attivare col cellulare con una prassi semplicissima, e ce ne sono tante, ce l'ho un bel mi sa che è una sporta, capito? In modo che se acquisti da internet non devi usare carte di credito collegate al conto bancario, che se te l'hackerano guai. Ehi, aspetta che stavo rispondendo al telefono. Ehi, riprendi Luca. Natalino, sei in QRX oppure puoi parlare? Sì, sono in QRX, che mi stanno venendo i dolori ogni tanto. Cazzo. Questo cazzo di cosa, di posta immobile si mangia cazzo i soldi senza fare un cazzo, senza manco telefonare. Sono tutti coglioni, guarda. Se domani mi fa, o arriva stasera la ricarica, come si chiama, della rete di inclusione, domani vado alle poste, cioè alle poste, vado in via d'Italia e mi faccio mettere che è la mobile, ne ho i coglioni in terra di questo cazzo di posta immobile. Sto pagando 10-15 euro ogni volta di ricarica e se lo mangiano loro, cazzo. Senza fare nulla, per fare le telefonate, tanto meno usare Google, niente, non ci ho messo niente, né Facebook, né WhatsApp, cioè WhatsApp solo, e basta, non c'ho altro. L'operatore telefono, no, per carità, prenditi o mobile, prenditi Iliad. È roba che paghi un fisso, c'è cioè, di 8 giga, 30 giga, 50 giga, con te, senza alcun costo aggiuntivo. Per quelle sono queste cose delle poste sono cose mangia soldi, Antonio. Credo che tu stessi parlando della carta di credito, vabbè. E adesso stai parlando dell'operatore telefonico. Sono cose mangia soldi. Vabbè. Ma insomma già solo perché già io gli avevo prestato a lui, capito, il telefono con la carta e si scaricava la musica, capito, ascoltava la musica, poi scaricava un sacco di app strane e allora ho fatto cancellare tutto io e ho cambiato l'account e tutto il resto, però la carta è rimasta sempre la stessa con la posta mobile, capito, evidentemente c'era qualche residuo che magari di credito che lo sto pagando io, capito, ma no, che io carico si scarica la carta, capito. Sono finiti i tempi del wifi, di un certo wifi libero, ti ricordi? Perché non c'è l'antenna che va bene, se mi prende l'antenna fuori, stai tranquillo che c'è come si chiama l'hotel qui di fronte, che in pratica dove c'è... appena entri in sala funziona libero, invece nelle camere devi segnalarti come nome, cognome, capito, eccetera eccetera. Ehi, ci volevo là, vabbè, se ti parlo di anni fa c'erano delle belle antenne, belle, particolari, adatte, discrete, c'era il modem alfa ad alta potenza. C'erano certi sistemi operativi tutti già pronti all'uso, cosniffer dirette, mamma mia, cosa non potevi fare? Vabbè, tutto passa, si invecchia e sì, già ci sono gli strumenti equivalenti, ma chi ne ha più voglia? Già lo so. Aspetta un attimo che mi hanno chiamato, ci sentiamo fra un quarto d'ora, che devo stare dando una mano un attimo a Simona. E se ritieniti salutato, se non ci sono, è che devo fare qualcosa qua. Ciao anche a Luca se l'ascolto, Natalino, Nicola, l'altro chi era, Giuseppe Leoncino. Ciao a tutti, ciao. Forse a dopo, forse. E a dopo, dai. Guarda un attimo la Simona che mi sta chiamando, ci sentiamo dopo. Ciao Marco, ciao buon po'. Ciao Luca, ciao. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Ora, attenzione 10. Scusami 10, c'è il suo? Cicco 10. Cazzo, la mia. Non è capito. Sì. 3 prova. Ascolta, come sta andando che qualcuno mi ha toccato il microfono e me l'ha smanettato? È la voce un po' citofonica, No, più che citofonica, dimmi se è basso o è alto, sto uscendo con un call con l'MC60. No, la voce c'è, ma dell'MC60 non c'ha nulla, Fabrizio. Così no, così no. 1, 2, 3 prova. No, così deve andare. 1, 2, 3 prova. No, vola tutto. Troppo sta uscendo, deve abbassare? No, va bene. Ma va bene, così esce bene. Perfetto, e a furia di non usarlo, secondo me, capito? A furia di non usarlo, questa cosa alla fine crea problemi. Beh, come tutti gli apparecchi. Io ho lasciato un mese fermo il gas, non ho usato e mi stava andando male i frequentimetri, non uscivano le ultime due cifre. Poi si è ripreso, come l'ho usato non l'ha più fatto, l'ha fatto una volta solo, poi non l'ha più fatto. No Fabri, adesso non va. Ecco, Rezetta, buonasera. Buonasera, con chi abbiamo l'onore di parlare? Oh, ciao Gianni. Ciao, buonasera anche a te. Va. Ciao, buonasera, buonasera. Sei Walter. Tu sei Walter. K2 serve. K2, con che apparecchio stai uscendo? Che sei un po' camuffato come voce, dai. Ti sento placido. Ehi, è una lana 48. Già va bene, ciao Walter, ben entrato nella nostra frequenza. E anche la mia, prima di te anche, perché entro poco, è sempre meno gente c'è. Ehi, vabbè, va. Se c'è entriamo, se non c'è dai pazienza, io c'ho altre cose anche da fare, non c'è problema. E purtroppo è così. Vabbè, più o meno gli anni sono quelli, Io ci sono circa 42-43 anni in frequenza. E io sono già 54 invece. Vabbè, tu già hai cominciato prima, già è vero. Però mi ricordo bene di tutte le battaglie che si facevano prima. A Badesi, qualcosa di Badesi, cavolo, a chi arrivava più forte. E l'abbiamo sempre fatto per giocare con Briscolone, dici. Sei uno dei pochi rimasti che non prende la licenza ancora, ormai la stanno andando a cani e purci. Ma a me non mi interessa sinceramente. Io guarda, già c'è poca gente qua, non faccio manco più ascolto, ti dico la verità, prima c'avevo ricevitore, adesso non sto manco più ascoltando. Entro qua a fare 4 chiacchiere perché sono impegnato mani e piedi. Sento sotto un merlo cantando. No, non è un merlo, è un pappagallo. Sento sicquettato. C'è un pappagallo che parla, ne ho 3. Sì, bello. Bello. Beh, insomma, dipende dalla passione, dal gusto di uno, se ti piace o meno. Stai uscendo con un po' di alternata a volte. C'è un alimentatore un po' scarso. Poi già lo sai, se mi metto già sono tutto a posto. Già lo so. Infatti se tu vuoi c'è gli apparecchi per usarli e farli girare. Fuori frequenza. Guarda, se è fuori frequenza, se mi stai ascoltando. Sì. Se va bene così. K. No, di nuovo fuori. Fabri, come lo ascolti? Ma in FM Non te lo so dire, sento un po' fuori frequenza. Walter, ci sei? Sento un po' freschi. No, non mi sento bene, c'è qualcosa che non va. Guarda così se va bene. Però guarda, ho cambiato tre apparecchi. No, ti sento fuori con tutti e tre gli apparecchi. Allora, è stranissimo che così, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 9, se ne prende un solo comando in questo momento, aspetta, così sono, non sono così funzionando bene, 1, 2, 3, 9, attenzione canale 10. Questo è super. Adesso qua sto uscendo. E a voglia. Va bene, collego tutto. Cappa, che apparecchio è questo? Questo è un 48 che avevo dato modificato, che era l'apparecchio che non accendevo. Allora no, va bene, c'è l'eco, c'è tutto quanto. È anche piacevole perché non disturba. Aspetta che provo anche il 440. No, questo qui non va bene Fabrizio, questo qui è fuori. Allora, guarda adesso se è fuori, 1, 2, 3, prova. Adesso va bene, adesso è chiaro. Ecco, allora, perché era troppo alto il microfono? Se non lo guarda, Adesso così è troppo o è troppo basso il microfono? No, va bene, io ti sento bene. Vuoi provare anche in FM? Vuoi andare in FM? Vai in FM, lo proviamo. Perché è molto forte. Ho capito, poi stavo provando un Galaxy, però non fa perché mi pare che manca la batteria nel microfono. KK. Ma qual è quello che avevi modificato il Galaxy? Quello che avevi fatto tutto con l'effetto eco, eccetera. No, quello l'avevo venduto, il Galaxy fu il tutto, e dai, il Galaxy più tutto. Io adesso come quello c'ho il Galaxy tutto, poi c'ho il. Come CB c'è il Galaxy tutto, poi c'è il quello l'ho tutto modificato, devo fare tutte le modiche possibili immaginate, e poi il coso, come si chiama, e poi la 7440 è quello che tengo sempre acceso, e poi c'è un lineare intorno al guardate che non accendo mai sulla 27, ma non mi fermo, infatti uno l'ho anche regalato. Io già l'ho vista la stazione tua, me l'hai mandata, te lo ricordo, me l'hai mandata. Che l'ho vista, se c'è anche un linearone che deve essere oltre 1000 watt. Anche raddoppia. ogni banda. Va bene, Gianna, che mi hai fatto il microfono che sto facendo un lavoretto. Ciao Gianna. Ciao, ciao, ci sentiamo. Avanti, vate, se ci si. Oh, qual è già andato via? Si è demoralizzato perché non ci va bene. lui ha fatto così. Allora, ci sentiamo, ciao Gianna. Ciao, ciao Fabio. Sul 10 c'è qualcuno, se ne è stato tutto.